Cari amiche e cari amici, quindi sono oltremodo contenta perché a poche ore dal concerto, dal primo concerto in Belgio che Mario Biondi avrà a Bruxelles questa sera alle 20 presso l'Ancien Belgique, siamo in collegamento telefonico con Mario che è appena arrivato a Bruxelles, tra l'altro. Quindi Mario, ti ringraziamo della disponibilità e siamo veramente curiosi di sentire dalla tua voce di questo tuo nuovo album, Beyond, che è disponibile nei negozi di dischi già dal 5 maggio, quindi sei veramente in tempi velocissimi fuori dall'Italia, qui a Bruxelles. Intanto grazie per l'accoglienza, per il benvenuto, sono molto contento di essere in questa bellissima città che ho avuto anche modo di visitare un po' ieri, veramente una bella atmosfera. Sono qui per la prima volta e siccome dicevi tu, insomma, sono anche emozionato, ecco, da questa cosa qui perché non era. Insomma, non sai mai cosa aspettarti, no? Nella vita. E come mai Bruxelles, quindi è la prima volta che vieni, come mai questa scelta? Beh, le scelte sono sempre dettate da chi mi gestisce nel booking e dalle richieste che ovviamente ci Certo. sono, naturalmente. Sì. Poi è ovvio che avevo piacere di visitarla, questa città. Certo. Allora, come cantante ti sei fatto un nome utilizzando l'inglese? In combinazione con un genere però poco praticato in Italia, che è il soul. La tua voce è straordinaria, io credo che siano poche le voci, penso che in tanti te l'abbiano già detto, quindi io mi unisco a quel coro di fan che adorano la... Inverosimile, No, assolutamente, che adora la tua voce. Quindi come nasce questa tua passione soprattutto per il soul? inverosimile. Ma credo che sia intanto una questione proprio di amore, vero, no? Mi sono appassionato, innamorato di questo genere da giovanissimo. Avevo forse poco più di 12 anni quando ho avuto una delle prime cassette con all'interno, che so, artisti come Michael McDonald, i Doobie Brothers, come Augereau, come George Benson e tanti altri artisti di quella visione soul. E probabilmente quella cassetta, insomma, la vecchia demo tape, è servita da imprinting per me. Assolutamente, tra l'altro tu sei uno dei pochi rari cantanti maschili nella musica jazz, perché si tratta di una disciplina prevalentemente femminile, quindi questa è un'ulteriore, se vuoi, esclusività in quel campo. Insomma, diciamo che la storia è costellata di grandi artisti che ancora, fra parentesi, molti sono in vita, ora, senza voler scomodare artisti insomma, di levatura incredibile come può essere Tony Bennett, come è stato Frank Sinatra, come sono stati centinaia di cantanti jazz o swing, insomma, degli anni d'oro dello stile. Oggi probabilmente è più percorso dalle donne, chissà, probabilmente perché gli uomini si sono dati alla modernità e le donne sono più amanti dei ricordi. Chissà, magari è vero, certo, c'è pure chi ti ha paragonato a Barry White. Né voler usurpare il regno del grande Barry White, che era il dio delle camere da letto, ecco, così era nominato, no? Senti, allora, ti senti più jazz, più pop? Qual è la vena musicale che percepisci più tua? Ma non ho mai avuto effettivamente, non so come dire, razzismi musicali, ecco, lo metto fra virgolette. Amo la musica in toto, ho sempre ascoltato di tutto, con mio padre ascoltavo il doo-wop piuttosto che gli albori di Smokey Robinson, piuttosto che i classici italiani, che so, di Baglioni, piuttosto che di De Gregori, di Dalla. E, insomma, non, ho ascoltato ascoltavo, fagocitato musica fin da bambino, grazie a mio padre, quindi non ho differenze, ecco, non vivo differenze musicali, amo tutto, mi piace cantare tutto, mi piace mettermi in gioco su tutti i generi musicali, poi naturalmente c'è il mio grande amore che è questo, che è soul contaminato dal jazz, ma poi alla fine credo che nella mia musica ci siano tantissime contaminazioni. E poi magari in alcuni momenti me ne accorgo, ecco, poi tante volte vieni ispirato, non sai da dove viene l'ispirazione, ma sicuramente viene anche da una commistione di contaminazioni e di ispirazioni. Assolutamente, tra l'altro tu sei anche autore, scrivi anche per gli altri. Sì, scrivo molto per me, perché diciamo che la maggior parte delle composizioni le faccio io. Mi è capitato in qualche occasione, sì, di scrivere anche per alcuni giovani emergenti italiani. Sì, è una parte di me che coltivo. Allora, il tuo ultimo brano, sì, e il tuo ultimo album è veramente molto bello. Ho avuto la possibilità di ascoltarlo in questi ultimi giorni. Sono 13 brani, uno più bello dell'altro. Quello che mi è piaciuto di più, anche se sono tutti belli, quindi, però mi hanno colpito in particolare due brani: Love is a Temple and Fly Away. Magari ci vuoi raccontare qualcosa solo su questi due brani, oppure c'è un brano a cui sei affezionato in questo ricchissimo disco? Ma sono affezionato un po' a tutte le tracce, anche perché le ho viste nascere, le ho viste crescere, ho lavorato agli arrangiamenti, alla scrittura, allo sviluppo del testo, ho seguito ogni passaggio, quindi sono molto legato ad ognuno dei brani contenuti nel progetto. Love is a Tempo è una canzone alla quale sono molto legato, sicuramente una canzone che poi non avevo scritto per me, per un mio progetto, ma bensì avevo provinato per una ragazza, per una corista che lavorava con me, poi è rimasto lì nel cassetto un paio d'anni, 2 anni, forse 3, dopodiché ho pensato di riprovarla, perché mi ricordavo che aveva un fascino, un suo fascino, e effettivamente il suo fascino ce l'ha. Non avrei mai pensato che potesse così tanto ispirare le persone, perché non so, siamo tornati da poco dalla Russia dall'Azerbaigian, e lì Love is a Temple è un brano conosciuto, amato, già lo cantano, e quindi è una di quelle cose che mi stupisce sempre, favorevolmente naturalmente. E a proposito, nei tuoi tanti viaggi, nel tuo viaggiare con l'obiettivo anche di far conoscere la tua musica, c'è magari un aneddoto, un episodio particolare che ti è rimasto particolarmente in mente oppure nel cuore? Ma devo dire che ogni volta che percorro la strada qui che mi delinea la musica, incontro sempre delle persone speciali che condividono con me tanto affetto, molte persone che mi dicono che grazie alla mia musica riescono a ricavarsi un momento di felicità, un momento di relax, o magari anche persone che purtroppo hanno sofferto magari di una malattia o che stanno cercando di debellarla, che mi dicono appunto che grazie alla musica riescono a passare meglio certi momenti difficili. E credo che quello sia una delle testimonianze più importanti ovunque io vada. È la testimonianza che quello che sto facendo, al di là del grande amore che io metto in quello che faccio, è il grande amore che riceve chi lo ascolta, che mi appaga di più. Quindi che cosa ci possiamo invece aspettare per il concerto di questa sera? Tu ti esibirai tra qualche ora proprio all'Ancien Belgique, magari ci saranno anche brani tratti dal tuo penultimo album, certo. Da Sun. Certo. Ma cosa aspettarsi? Io non mi aspetto mai niente, perché l'aspettativa molto spesso poi delude, oppure è sottodimensionata e quindi hai addirittura stabilito quasi una cosa che poteva essere più grande. Non mi aspetto nulla, guardo, vivo, respiro, apro l'anima, apro il cuore e provo a condividere e a vedere che cosa succede con il pubblico di Bruxelles. Allora, ci sono all'ascolto di Radio Alma di Bruxellando tantissimi ragazzi che amano la musica, che mettono su delle piccole band musicali e che esibiscono anche di sera. Un consiglio spassionato a questi giovanissimi che ci ascoltano. Divertitevi a cantare, a suonare, a fare musica e non vi aspettate mai niente, perché la musica è gioia per l'anima, ma non deve essere pensata come un trampolino per realizzare dei sogni economici, ma un trampolino per realizzare principalmente la soddisfazione di avere un proprio spazio nella vita nel quale esprimersi. Quindi non è tanto un lavoro, una vocazione. Sì, credo che sia principalmente una vocazione. Poi, se hai la fortuna, e oggi è sempre un po' più difficile, di farlo diventare una professione, comunque sia, anche nell'attimo in cui diventa una professione, deve essere sempre amata e trattata da vocazione. Mi sembra veramente un bellissimo messaggio perché oggigiorno magari le arti in tempi soprattutto di crisi vengono un po' messe da parte, vengono anche un po' considerate un bene di lusso, quando invece tu ci insegni anche attraverso la musica che proprio così non è. Arte, la musica è condivisione con poche persone che ti amano tantissimo, con molte persone che ti amano tantissimo, ma deve essere condivisa, è come una veramente una grande intimità condivisa con passione. Mario, noi ti ringraziamo veramente della disponibilità del tuo tempo. Ricordiamo ai nostri amici ascoltatori che sarai in concerto alle 20 questa sera a Bruxelles all'Ancien Belgique. Per acquistare i biglietti, il sito dell'Ancien Belgique, quindi www.abconcert.be. Mario, ti ringraziamo e soprattutto ti auguriamo un bellissimo concerto e sono sicura che il pubblico di Bruxelles ti sorprenderà. Super, merci. Buon lavoro! Ciao, grazie a te. Cari amiche e cari amici, quindi avete ascoltato dalla viva voce di Mario Biondi quello che è il suo ultimo album, per l'appunto Beyond. Magari soltanto qualche parola. L'album, la produzione è stata curata nel minimo dettaglio con musicisti di eccellenza, tra i quali i Dap Kings, gruppo musicale Funk Soul di Brooklyn, band di Sharon Jones. Che hanno suonato con artisti di un certo calibro, quali Amy Winehouse ed altri artisti internazionali. Una parola magari al volo tra gli autori dei brani, Bernard Butler, ex chitarrista degli Suede e di Didi Bridgewater. Quindi che cosa dirvi? Di partecipare numerosi questa sera, quindi alle 20, e questo è un Bruxellando special perché abbiamo avuto la possibilità di metterci in contatto con Mario proprio recentemente, quindi scusatemi di questa intrusione pomeridiana a Radio Alma. Bruxellando, vi ricordo, la nostra prossima trasmissione, quindi martedì, ritorniamo con gli orari abituali alle 20. Abbiamo due ospiti veramente straordinari. Continua l'avventura anche della letteratura, che con la musica, secondo me, è una delle arti che dovremmo continuare a coltivare. Proprio come Mario dice, questa non è un lavoro, ha ragione, è effettivamente una vocazione. Martedì vi augura ancora un'ottima settimana e ci ritroviamo quindi martedì. Un caro saluto, Radio Alma, Bruxellando, martedì.